Paolo Scibilie, da Sentimenti nel vento. Stesso cielo. Cambiano le lingue, cambiano le case, cambiano le ore. L'infinito celeste è unico, davvero. Stesso cielo, quando è bianco e quando è nero. Tanto atteso altrove da chi non parla come me. Quasi sempre puntuale e non felice in tutto il mondo. In un unico giorno, come un amico che ritorna, come una preghiera semplice, col cuore, dettata da un bimbo che ingenuamente non sa ancora amare, ad un vecchio scrittore. Da innamorare. Piove, stesso cielo, come un fiore nel mio campo o nel campo di chi muore, come sole o mezzaluna triste, come stelle. Come un libro di storie vere tra le mani, come guardarmi allo specchio, come il sorriso candido ed esausto di chi non riesce a capire, come vergini occhi di fanciulla pieni d'allegria e dal cielo stesso eterna fantasia, eterna poesia.